Allora, un pomeriggio a metà tra la grande musica di Radio Tour e il grande sport di Radio Tour, insomma, sempre alla grande. Vivremo questo triangolare di San Giovanni Rotondo con Napoli, Bari e Udinese, quindi un bel assaggio di Serie A, e vivremo anche una grande giornata di musica. Ah, questo mi fa piacere, perché essendo la radio ufficiale del calcio Napoli e essendo pure la radio che trasmette il migliore della musica alla battita dell'estate, abbiamo proprio creato una situazione perfetta questo pomeriggio. Grande divertimento, quindi non ci lasciate, perché tra pochissimo veramente ci divertiamo alla grande. Non parleremo soltanto di calcio, perché oggi ci sono state le qualifiche per il Gran Premio di Monza di Formula 1, e quindi parleremo anche di questo, perché ci sono delle belle notizie per la Ferrari. Una grande giornata dello sport, per lo sport e per la musica qua su Radio Tour. Allora, grazie a Gino Nuzzo che è dall'altra parte del vetro, grazie a Daniele che è davanti a noi, che è tra il vetro e Gino Nuzzo. Sì, sei bellissimo. Ci fermiamo per la prima pausa musicale. Sport Time. Questo è un mondo e noi abbiamo il mondo del sport proprio sotto mano questo pomeriggio. A portata di mano dobbiamo fermarlo al volo, perché dobbiamo spostarci tra Monza, dove si sono svolte le prove del Gran Premio di Formula 1, griglia di partenza tutta rossa con Schumacher e Barrichello, quindi grande festa domani a Monza, ma ne parleremo tra poco. E poi dobbiamo fare subito una puntata nel sud Italia, Tavoliere delle Puglie, San Giovanni Rotondo, città resa famosa dalle gesta di Padre Pio. C'è un triangolo importantissimo questo pomeriggio, perché vede di fronte tre squadre di Serie A per una nobile causa: Bari, Napoli e Udinese. Noi ovviamente siamo radio ufficiale del calcio Napoli, quindi non potevamo mancare. È giusto che ci siamo, sì. E allora ci sono per noi Massimo Esposito, che cura i collegamenti esterni, Raffaele Auriemma, che tra poco comincerà a raccontarci le partite, ma c'è soprattutto Gianfranco Lucariello, al quale auguriamo buon pomeriggio e che sicuramente avrà il primo ospite in scaletta. Buon pomeriggio. È ottimo, siamo sempre i primi con tutto. Adesso c'è un po' di musica troppo bello. Questo prima di tutto è Lady Easy Love, è la prima volta che lo sento io. Molto bello, Lady Easy Love. Sport. Tempo di perfezionare un po' quelli che sono i problemi che abbiamo avuto. Ricordiamo che lo stadio, tra l'altro, di San Giovanni Rotondo, Fergal, è piccolissimo, insomma, non è uno stato abituato alle squadre di Serie A. Però c'è grande successo, hanno venduto anche lì, come Robbie Williams, hanno venduto subito tutti i biglietti per questo trofeo, per questo torneo. Quindi, infatti, insomma, immagino che sarebbe una cosa molto sfiziosa vedere queste tre squadre in uno stadio così piccolo. E poi sì, vedere il Napoli che quando è il 1° ottobre si presentano qua a San Paolo. Cioè, è proprio una cosa speciale. Se siete vicino a San Giovanni Rotondo, andate lì subito. Fate presto. Allora, prima di ridare la linea a Fergal, che ci presenterà la grande musica di Radio Tour, volevo soltanto dirvi, ricordare che la prima fila del Gran Premio di Monza è tutta Ferrari. Primo Michael Schumacher in 1:23.770. Subito dietro di lui Rubens Barrichello, ha soltanto 20 millesimi di ritardo. Poi Mika Häkkinen e Jacques Villeneuve. Poi Coulthard al 6° posto, Jarno Trulli in 3ª fila, l'altro italiano Giancarlo Fisichella parte in 9ª posizione, in 5ª fila. Insomma, ancora una volta gli italiani Trulli e Fisichella si comportano bene, ma tutti quanti facciamo il tifo per la Ferrari, speriamo domani in un gran premio. Lo sarà senz'altro. E adesso un po' di grande musica. Una delle cose che mi è piaciuto di tornare in Irlanda è vedere che la musica lì che ascoltano è simile alla musica che ascoltiamo qua. Cioè, io pensavo che un sacco di questi brani non sarebbero arrivati in Irlanda, perché l'Italia ha un gusto particolare, però tanti ci sono, e questo è uno di loro, Love Connection with a Bomb. Day by Morcheeba, il loro nuovo album Fragments of Freedom dimostra un po' in direzione cambiato, anche molto piacevole questo. Guarda, posso dire che i Morcheeba sono sempre stati nel mio cuore. Con questa canzone poi sono entrati definitivamente nel mio cuore, non perché parlano di Roma, ma perché veramente sono troppo grandi, sono troppo carini. Sono bravi. Magari il prossimo brano sarà Napoli Wasn't Built in a Day, così sarà un cuore di tutti i tifosi del grande Napoli, vai. Fergal, a proposito di calcio, tu mi parlavi di un giocatore, di una partita e soprattutto di un giocatore che i napoletani hanno nel cuore e che vorrebbero vedere ancora nel Napoli. Questo chiaramente subito si capisce, stiamo parlando del grande Diego Maradona, che ho letto qua in giornale che forse è quasi confermato che il 3 gennaio dell'anno prossimo, il 2001, lui tornerebbe a fare il testimoniale qua a Napoli. Eh sì, perché devi sapere che quando tu sei stato via, a Napoli hanno deciso di ritirare la maglietta numero 10. Praticamente adesso nella storia del Napoli non ci sarà mai più un giocatore che potrà indossare la maglietta numero 10. Guarda, sarà... questo l'ho sentito e mi ha fatto preoccupare un po', perché ho detto, se non c'è più il 10, chi è che gestisce la partita lì all'attacco? Cioè, che manca un numero importantissimo. Però poi mi hanno spiegato che è un onore incredibile per Maradona, che le lega sempre al Napoli, è come avere questo simbolo ambasciatore di questa squadra. E sì, mi sembra una buona idea e un ottimo onore per Maradona. E tra l'altro sarà una grande partita, un grande show, perché Maradona giocherà con il due Napoli dello scudetto, giocherà contro questo, insomma sarà una festa incredibile e ci saremo, noi ci saremo senz'altro con tutto il mondo, immagino, Michele, immagino che l'Argentina ci saranno a guardare, tutto Cuba, cioè tutti quanti che hanno Maradona nel cuore, e ce ne sono tanti in tutto il mondo. Certamente sarà un avvenimento mondiale, però ancora una volta Napoli sarà la capitale del mondo per il calcio. E Radio Tour sarà la radio ufficiale, ci siamo. Allora Fergal, cosa ci propone adesso? Adesso, cosa vogliamo ascoltare? Adesso, allora, questo è il DD. Se dicessi il DD, sì, che sì, sono due D, no? Il Double D con Dani and You, per te, You. Grazie. Non so se avete visto il video per questo, però fa ricordare il Grey Whistle Test, un grande programma degli anni 70 in Inghilterra, e c'è proprio John Peel che le presenta all'inizio. È una cosa molto sfiziosa per me vedere un po' la storia della televisione inglese presentato adesso nel 2000. È sempre bello vedere le cose poi in bianco e nero, insomma le cose del passato. Un po' di GSM Box, un po' di messaggi, 0348 24 38 888. Ciao carissimi, oggi è il mio compleanno e chiedo gli auguri, faccio 17 anni, tanti auguri Diego, inutile dirlo, sei mitico, grazie, nostro invincibile numero 10 Titti Maradona 83, non poteva mancare il suo messaggio. Tra l'altro tanti auguri a Titti che oggi compie 17 anni. Ancora messaggi, salve a tutti, ieri sono tornata da un viaggio in Irlanda. È stata in Irlanda questa nostra ascoltatrice? Oh, non l'ho visto in aereo, siamo viaggiati insieme, stupendo. Ma mi mancava Radio Tour, il mio DJ preferito, by Nicky. Probabilmente sei tu il DJ preferito, visto che andate in Irlanda. Si è trovata molto bene? Ah, ma se mi mancava così tanto. Venivi giù, Nicky, a Cork, al sud dell'Irlanda. Io stavo lì 10 giorni dicendo come passa questo tempo, perché pure a me mancava voi, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Tour. E poi manca sempre la radio, c'è poco da fare. Chi fa la radio a un certo punto va in crisi d'astinenza se non la fa. Proprio. È vero, è vero. E per Gianfranco Lucariello, che dovremmo avere in collegamento, quante possibilità ha il Napoli di ingaggiare il grande Robby Baggio? Ce lo chiede Dino D'Asiano. Insomma, Gianfranco, c'è questa voglia di numero 10, c'è questa voglia di Roberto Baggio a Napoli? C'è voglia di avere un giocatore di grande qualità, questo credo che sia anche una volontà. Questi fenomeni che poi sono stati accertati essere dei miracoli. Noi miracoli non ne facciamo, però forniamo ore di divertimento e di bella musica. La battuta dell'estate è una canzone che pure in Irlanda è grande, che l'ho sentito sulla radio lì, ha aumentato di più la mancanza di Radio Tour, e quindi le ascoltiamo subito, Gabriele, When a Woman. Sport Time. Dell'estate, magari sembra che l'estate è finito, però ho letto adesso che migliorerà il tempo, meno male, perché tornando dall'Irlanda, dove ho fatto pure il bagno, tornando qua sono proprio rovinato con le tosse e raffreddore. Spero che fa più caldo a San Giovanni Rotondo, di sicuro la situazione sì. saremo sicuramente meglio anche noi, anche perché insomma sinceramente nessuno si aspetta mai che a Napoli ci sia il maltempo. Poi alla fine anche a Napoli piove, anche a Napoli ci sono le nuvole, non soltanto le Nord Italia. Dico così perché in un'intervista la settimana scorsa lei ha detto: guarda, io non sono lesbica, però vorrei essere, perché gli uomini sono così un disastro. Ha detto tutti quanti le stanno un po' dicendo: ma perché non, come si dice, come out, non ti dichiari? Eppure sì. E lei dice: no, io non sono proprio così, e non sono, vorrei essere, perché vabbè, insomma, questo è Mel C. Praticamente siamo, per me sì, siamo materiale di scarto. Eh sì, sì, sì, che si può fare? Io ho pure comprato il suo disco, però non lo diciamo a nessuno. E immagino quando vede i soldi venendo che non sono così un disastro così tanto. Si sa che casomai molti uomini l'ascoltano, probabilmente cambia idea. Noi facciamo ancora un salto all'indietro, come abbiamo preannunciato. Sentiamo cosa ha detto David Sesa, che ha... Non c'è Turci, no? Sì. E invece vediamo che possiamo fare. Noi ce l'abbiamo. Io sono stato in Sicilia quest'estate parlando con i miei amici che hanno assistito ad un concerto di Carmen Consoli, e mi hanno detto che una cantante molto conosciuto è salito sul palco con Consoli e hanno fatto insieme un bel versione di Baby Can I Hold You Tonight. Sì che abbiamo Turci, questa è la bella voce di Paola Turci. Questione di sguardi. Sport Time. qui around the world, in giro per il mondo, e essendo la stazione, la radio in movimento, noi facciamo un piccolo giro del mondo, anzi facciamo un salto dall'altro lato dell'Italia, la costa ovest, no? E provincia di Foggia? Sì, siamo sulla costa est praticamente, siamo è vero. Ad oriente. È vero, vabbè, questo è raffreddore. Il raffreddore scombussola la bussola di Fergal. Sì, siamo praticamente sul tavoliere delle Puglie, siamo in provincia di Foggia, San Giovanni Rotondo, triangolare calcio Napoli. Siamo collegati con San Giovanni Rotondo, dove è in corso il triangolare Padre Pio. Ma ancora grazie a Massimo Esposito, che ha curato il collegamento esterno, e Gianfranco Lucariello per i suoi commenti e le interviste raccolte a bordo campo in tribuna stampa. Grazie a Gino Nuzio e a Gino Palumbo, che da poco ha appunto preso il suo posto in console. Grazie a Fergal, che vi terrà compagnia ancora per un poco. Da Michele Sibille è tutto, buon fine settimana e naturalmente appuntamento con lo sport, con Sport Time, lunedì prossimo a partire dalle 14. Ciao da Michele Sibilla, linea Fergal Cabra. Thank you Michele, iniziamo subito, riprendiamo subito con la musica. Adesso c'è Cisco, mi pare che si pronunciano come San Francisco, chissà se sono americani o no, comunque non importa, perché adesso ascoltiamo il Thong Song. Però prima di quello voglio dire, grande questa vittoria, forza Napoli, yes! This thing right here. A casa di Bob Marley nel Trenchtown in Jamaica per raccogliere fondi per creare un centro culturale e un studio di registrazione e anche un guest house per Bob Marley, questo tipo di shrine. E mi sembra una cosa giusta. Hello, I am Fergal Kavanagh. With me at the console abbiamo Gino Palumbo. Io sarò con voi fino alle 7 e poi arriva Luca. E Fabrizio ci ha telefonato da Napoli e vuole salutare Fabiana, Simona, Gaetano, Antonio e tutti gli amici di Napoli, e vuole sentire Alaya with Try Again. The movie station. Sognando di Californication in California. E in California, in America, adesso si pensa agli euro, il dollaro, ma come fanno a sopravvivere lì col costo della vita lì e il nostro soldi che non vale quasi niente in America? Vabbè, per loro non credo che ci sarà problemi, perché in agosto loro hanno guadagnato, diciamo, una triplo platino di loro album Californication. Hanno venduto 3 milioni di copie soltanto in Europa del loro album finora, e chiaramente sta vendendo sempre. È normale che vende, perché è un bel album pieno di pezzi di grande, veloce, lente, dà un bella impressione. Un altro gruppo che magari non hanno venduto 3 milioni di copie, però meritano sempre, perché l'album è veramente bello come Californication. Sto parlando del Subsonica. E il Subsonica saranno qua a Napoli ad Arenile il 16. Andate a vedere. Questo è Disco Labyrinthos on Radio Tour, The Moving Station, the best of the music of the summer. E noi siamo arrivati alla chiusura, purtroppo, però che programma pieno di attività, wow! Abbiamo iniziato alle 4 questo pomeriggio con Michele Sibilla e abbiamo parlato un sacco di calcio, di questo, di quello, l'anticipazione prima di questo triangolare a San Giovanni Rotondo. Abbiamo visto Bari e Udinese e abbiamo sconfitto tutti e due, e grande, grande Napoli, quindi posso tornare a casa con pace, yes! Ho iniziato questo pomeriggio, come ho detto, con Michele, adesso Soluccio, e prima c'era pure Gino Nuzzo, che si è trasformato in Gino Palumbo. That's incredible. E io adesso mi trasformerò un po' in Luca. Come faccio dopo il punto ora, vai. Adesso vi saluto, ci sentiamo domani alle 18. Alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock. Le 19 e un minuto. Radio.